Scusate il ritardo, scusate i casini, però intanto vi ringrazio per essere qui, per la pazienza. È il terzo giorno del Festival di Conversazione sul Futuro e oggi c'è messa di mezzo ancora la partita che insomma ha ritardato un po' la ripresa dei lavori. Comunque, siamo qui nel Teatrino Convinto Palmieri e da oggi e domani saremo anche qui. Vi ricordo che al primo piano del del chiostro invece c'è anche la mostra Come rivestita e una serie di incontri che si svolgono anche oggi e domani in collaborazione con la Casa delle Donne. E io vi passo subito la parola a Chiara Morgantini, che ringrazio per essere qui e che vi presenterà tutti gli ospiti. E ricordiamo che in mezzo al festival c'è stato anche lo show dell'Italia, quindi questo per aumentare le fortune. Quindi a seguire dopo questo incontro ci sarà l'incontro Il Fattore Culto, che era previsto per domani pomeriggio ma avendo dovuto anticipare le partenze e ritardarne altre, invece Woman on the Ground, che era previsto qui alle 19.30, si terrà domani alle 18 alle Cantello. Cioè, spostare le cose di festa è la cosa più complicata del mondo ovviamente. E quindi appunto subito dopo ci sarà l'incontro Il Fattore Culto tra gli ospiti Omar Chamani, che è un giornalista curdo che appunto è arrivato ieri qui a Lecce, Juventino tra l'altro, e poi alle 21 ci sarà in questa sala anche il maestro Michelangelo Vescovetti. Ma adesso non so ancora bene il microfono, si sente? E quindi io do la parola a Chiara per introdurre l'incontro. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per Paolo. Come l'abbiamo raccontata per la prima volta come fosse il futuro, quindi cercherò di ambientarmi. È la prima volta anche per Antonio, più che per me. Voi invece siete anche per Susanna, benissimo. Mi ha fatto un bel libro. un'analisi tra le moltitudini, di sentire senza litigare su social network, sui media e in pubblico per Franco Casaleditore. Quello proprio cui probabilmente riusciremo, e spero, a parlare un pochino di più, è tenendo acceso che è l'evoluzione di questa conversazione con Veragheno, posta, commenta, condivisa senza spegnere il cervello. Ritorno alla parola del mondo molto brevemente, titolo complesso, impegnativo, che mi ricorda un attimo di pubblicazione del libro da cui appunto abbiamo preso il nome di questa conversazione, libro di Hannah Arendt, 1963. Io ho la fissazione di contestualizzare le cose, perché in realtà sono più un mestiere giornalista, ma sono una storia. E nel 1963 c'è stato il primo discorso di Martin Luther King, quello più forte, I Love You. In quello stesso anno è stata sancita l'hotline, che adesso ci fa un po' ridere, ma era questa linea di contatto diretta tra gli iscritti e l'Unione Sovietica. E non c'era paura, c'era già la questione di Cuba. E soprattutto nel ciclo tempo, la parità delle mani della Arendt si inserisce esattamente in quel momento, in quell'anno, e va a raccontare il processo ad Eichmann, a Rolf Eichmann, che è stato un processo su, appunto, una delle più importanti figure del nazismo, dell'olocausto, che ha organizzato tecnicamente, praticamente l'olocausto, e ha gestito corpi, numeri e non persone. Io mi vorrei astrarre un po' da questo titolo di libro, cercare di distanziarmi, per non concentrarmi sul linguaggio, e riuscire invece a parlare di quanto la varietà del male non consista soltanto nella banalizzazione della sgradevolezza che abbiamo nei nostri rapporti, ma di come possiamo analizzarla e come possiamo raccontarla sia nell'analisi delle moltitudini, attraverso i modelli di business, e attraverso la storia delle persone. E io comincerei da Antonio. Prego. Grazie Chiara per la bella introduzione, vorrei dire grazie anche a Pierpaolo e a tutti gli organizzatori di Conversazioni del Futuro, che quest'anno hanno dimostrato a chiunque di noi avesse così la folle idea di organizzare un festival che non è facile, perché le variabili fuori controllo sono davvero tantissime. E hanno fatto un lavoro straordinario anche quest'anno. E allora Chiara mi passa la parola sul tema dell'odio presente messaggi nel discorso pubblico, nelle conversazioni, già sa che io non parlerò della tecnologia cattiva, perché è la tipica risposta dell'esperto, no, non è colpa della tecnologia, è colpa di come la usi, di come le persone usano la tecnologia. No, io tipicamente mi concentro sulle scelte che vengono fatte per cercare di tirare fuori i soldi dalla tecnologia. Le scelte di business molto spesso orientano l'uso delle persone. Si dice che la tecnologia non è neutrale, ed è vero, non bisogna essere tecnodeterministi, però sicuramente la tecnologia ha un ruolo nel moltiplicare, per esempio, l'odio e gli effetti dell'odio. Però vi assicuro che la scelta del modello economico per far fruttare le tecnologie è molto, molto meno neutrale rispetto alla tecnologia, ce lo insegna anche banalmente la prima rivoluzione industriale, che in assenza, diciamo, di un ragionamento strutturato sulle conseguenze produsse lavoro di 9 ore di montaggio fino a 14 ore al giorno, e poi col tempo guadagniamo il diritto per dare un senso a quella prima rivoluzione. Adesso saremo alla quarta e siamo nel piano quadro, cioè non c'è nessuno che ha affermato la tecnologia nel produrre i suoi effetti. Quali sono fondati sulla contrapposizione, sul conflitto, sull'odio. Si fa soldi in questo modo, però attenzione, noi non dobbiamo cadere come scrivo nel libro, nell'equivoco di pensare che questa nuova tecnologia digitale produce la contrapposizione, il conflitto, e i vecchi media sono contaminati. Faremo un gravissimo errore, perché se guardiamo la storia dei media che il conduttore del telegiornale amatissimo, pacatissimo, fino ad allora interpretato dall'altrettanto straordinario Peter Finch, impazzendo e cominciando a insultare il pubblico e tutti quanti in diretta, non era un elemento da togliere dalla TV perché era scrivere il decoro e la responsabilità, ma era un elemento da valorizzare, bisognava valorizzare la violenza del suo eloquio e costruire un format solo per lui, solo per la potenza e la scampo delle sue parole fuori controllo. È triste dirlo, ma anche se le nuove piattaforme ci danno la sensazione di qualcosa di straordinariamente più avanzato, moderno e sofisticato, vi assicuro da analista del mercato dei media che dal punto di vista del modello economico i modelli si somigliano in modo impressionante. Così come negli ultimi 40 anni, per esempio, la televisione e poi i giornali che hanno cambiato la percezione su questo, ha chiuso le persone nei recinti, chiudendo ovviamente l'offerta distributiva in un unico canale distributivo in cui aveva del monopolio, e allo stesso modo oggi l'unico modo per fare soldi è costringere le persone a stare in uno spazio chiuso dentro internet, anche se là fuori ci sarebbero straordinarie opportunità, per esempio di dialogo. Si tengono le persone in un luogo e si spingono le persone con tutta una serie di tecniche a entrare in contrasto con le loro, in modo perché vengono premiate le discussioni più accese, che sono quelle che liberano più dati, e poi i dati vengono venduti agli inserzionisti. Quindi l'algoritmo avanza alla ricerca di una continua contrapposizione tra le persone. A peggiorare le cose c'è una sorta di santa alleanza tra i vecchi media e i nuovi media, perché quali sono le cose che ci fanno discutere di più, per esempio su Facebook? Sono i temi dell'attualità, quelli che ci permettono di definire l'interlocutore, anche se non lo conosciamo, immediatamente con un grillino o un pindino, per fare l'esempio più ovvio, identitario, qualcuno l'ha visto. Noi crediamo di essere liberi di scegliere di che cosa parliamo sui social network, ma per lo stesso motivo per cui siamo su Facebook e non in un ipotetico altro luogo, e cioè è lì che ci sono le persone, per lo stesso motivo andiamo alle discussioni dove vediamo che ci sono tutti, e le discussioni dove ci sono tutti sono quelle dove si parla delle cose che tutti hanno letto e sentito, ancora una volta dove? Sui giornali e in televisione. Non è vero che esistono nuove agende dell'informazione. Siamo ancora alle 24 ore a parlare di quello che hanno parlato i giornali la mattina o i talk show la sera, che poi a loro volta, fatalmente capisco che il gioco, cercano di buttare non solo lo schermo televisivo, ma tutti gli schermi che verranno. Allora, questo per dire, e chiudo, che è vero, bisogna, come fa abilmente Bruno nelle sue pubblicazioni, cominciare a ragionare come singoli individui per cercare nuove modalità di confrontarci in modo da poter inseguire l'ideale della disputa felice. È vero che non possiamo spegnere il cellulare, come dice, mettere via il cellulare, come dice Aldo Cazzullo in un best seller, ma bisogna tenerlo acceso, come dicono Vera e Bruno nel loro ultimo libro. Però è anche vero, dal lato dell'industria, essere perfettamente consapevoli che quello che stiamo facendo adesso è quello che è affascinante, che andiamo ai festival a parlare di l'odio. Quello che stiamo facendo adesso è abilitare l'odio, e che il Burioni di oggi è lo Sgarbi di ieri, e che dobbiamo renderci conto che ciò contro cui stiamo parlando è ciò che noi stessi abbiamo abilitato. Abbiate la pazienza di sentirla, se può. Quando e uno non riconosce che l'altro stia parlando bene con chiarezza, ci si attacca e ciascuno comincia a pensare che l'altro sta parlando per invidia, facendo così si inizia a fare a gara per avere una meglio e si rinuncia alla ricerca sull'argomento proposto nella discussione. Così si finisce che addirittura certuni vanno a separarsi nel modo più disonorevole insultandosi, tanto che anche i convenuti in questa discussione pensano dentro di sé che non ne è valsa la pena. Mi pare che questa sia un'analisi perfetta di quello che accade nella maggior parte, dei nostri litigi online, sui chat di WhatsApp, su Facebook, nei luoghi della connessione, no? Si parte da un non capirsi, da quel non capirsi c'è un sospetto perché l'altro sta cercando di dimostrare di essere migliore di me, oppure io voglio dimostrare di essere migliore di lui. A quel punto si perde l'argomento, si diventa aggressivi, ci si insulta e pure tutti gli altri lo osservano, no? Non vale la pena discutere. Torna. Beh, questa cosa ci inchioda a tutti perché è stata scritta più di 20 secoli fa da Platone nel Gorgia. Cioè in un'epoca, lo dico perché mi ricollego a quello che dice Antonio, in un'epoca in cui a fare le discussioni erano davvero solo quelli preparati a farle. Cioè qui Platone sta parlando di gente che poteva permettersi di andare in piazza a discutere, aveva gli strumenti culturali per farlo, aveva addirittura la motivazione, cioè andare in piazza proprio con lo scopo di fare discussioni che contribuissero alla migliore conoscenza. Ebbene, anche quelli, i filosofi, se ne davano santa ragione. Questo ci dice due cose: uno, senz'altro non è la tecnologia, i social network, non sono nemmeno i media che hanno inventato il nostro problema del litigio, degli scontri, ma ci dice anche un'altra cosa, che non è solo una questione di livello culturale, ma uno dovrebbe dire, il problema del nostro è l'odio diffuso è l'ignoranza, ma che l'ignorante ha voce in capitolo. Ecco, anche chi è colto può provare odio, può manifestare odio, può odiare benissimo, anzi, a volte è anche più capace, proprio con le sue capacità linguistiche e culturali, di odiare gli altri e credere in modo efficace, perché noi a volte facciamo un errore intellettualistico quando parliamo di questi temi e crediamo sempre che alla fine la discussione è uno scambio di idee e di argomentazioni. Ci dimentichiamo invece che la maggior parte delle volte la discussione è un confronto relazionale, cioè ci sono dentro degli scopi, non solo degli argomenti. La maggior parte delle volte ciascuno di noi va a una discussione tendenzialmente per dimostrare di essere un po' meglio degli altri, che questa è una pratica di dominanza, oppure che cosa fa? Per dimostrare di essere migliore degli altri, cioè per screditare gli altri, cioè di far apparire gli altri meno intelligenti, meno preparati. Ci capita spessissimo, è anche umano. Di solito lo correggiamo questo scopo istintivo e cerchiamo di risalire e dire, beh no, lo scopo, voglio avere una discussione e confrontarmi davvero. Quando invece abbiamo un passo, litighiamo. Cioè il litigio noi dovremmo vederlo per quello che è. Il litigio è la strategia più semplice, più istintiva, più veloce per evitare il confronto, perché è il modo migliore e più comodo per allontanarsi da una differenza che mi costringerebbe a una messa a prova del mio idea. E noi penso che da questo dobbiamo partire, perché quello che ci sta raccontando Antonio è che il modello di business sfrutta esattamente questa procedura. Fuggi da quelli con cui non sei d'accordo, da quelli diversi, rifugiati assieme ai tuoi simili, continuando a contrapporti con i diversi. Uno, perché intanto così tutti i simili, io me li ritrovo lì e ti vedo la pubblicità sulle loro somiglianze, sul loro consenso. Due, quella somiglianza li mantiene compatti perché quel confronto non avviene mai. Fateci caso. Il vero problema è che noi abbiamo tantissima contrapposizione, ma poi il confronto, lo scontro vero, cioè allora andiamo a contraddizione, andiamo veramente a confrontare meglio, non avviene mai. È semplicemente una molto un'affermazione di posizione, io sto qui, tu stai lì, ma io qui non si tocca, quasi più, non c'è neanche bisogno che si tocca. C'è un bellissimo libro di Simone Cosmi che uscirà tra qualche mese, che fa notare come nella dinamica del like, noi addirittura abbiamo affidato un atto di consenso l'espressione del dissenso. Cioè cosa fa ciascuno di noi online? Cerca quello che fa l'invettiva come l'avrebbe fatta lui contro qualcuno e gli mette il like. Cioè addirittura ho demandato il dissenso a un campione, insomma, come si faceva nella tribù d'altronde, e legge un campione dei tuoi ideali e mi vai a mettere like. Quindi i campioni hanno imparato a parlare così, a parlare facendo in modo che cosa? Che il loro apparente dissenso in realtà si trasforma in una capitalizzazione di consenso in termini di like, di interazione e di raccolta di pubblico. Sappiamo bene che in questo momento gran parte parte la comunicazione viene fatta in questo modo. E allora io non voglio dilungare troppo, però vorrei dire una cosa, una prospettiva che io sto trovando, è che noi spesso pensiamo che il contrario del consenso sia il dissenso. Non è esattamente così, il vero contrario del consenso è l'odio. Cioè il consenso fondamentalmente è l'adozione degli scopi dell'altro, o addirittura uno dice io ho certi scopi nella vita, mi lascio adottare da un qualcuno a cui esprimo consenso, ci penserà lui al posto mio, ci pensa lui, sta articolando il pensiero come lo articolerei io, sta facendo delle cose che farei io, quindi mi lascio adottare da lui, no? Questo è il consenso. L'odio invece è il desiderio che l'altro non realizzi nulla dei suoi scopi, scopi intesi in senso ampio, scopi ideali, scopi reali, scopi concreti, scopi vitali, scopi dotti nel tempo, a breve termine. L'odio è quando io voglio che l'altro non realizzi nulla della sua vita, lo voglio cancellare. Quindi gli opposti sono il consenso e l'odio, e non a caso il consenso sempre l'odio, perché la maggior parte delle volte io per ottenere quel consenso devo aver creato una sacca d'odio intorno che riesca a dire bene a tutti qui, qui ci sono i nostri scopi, lì ci sono gli scopi dell'altro, degli altri che ci costringerebbero a un conflitto. E così finisco. In realtà l'azione dell'odio, il modo di parlare per suscitare l'odio, serve per maturare quel senso e soprattutto per evitare che il conflitto si svolga. Il conflitto diventa solo apparente, non avviene. Perché il conflitto avviene nell'altra parte, che è quella del dissenso. Dissentire che cosa significa? Stare nella differenza che abbiamo incontrato. Io e te abbiamo trovato di avere due scopi differenti o idee differenti o una differenza di qualsiasi tipo, anche di competenza. Quello che succede a volte è che il competente, quando parla con l'incompetente, non sopporta quella differenza e infatti non vorrebbe discuterci. Dissentire invece è accettare quella differenza e accettarla come messa alla prova. Allora c'è un grandissimo teorico delle discussioni che è anche il mio maestro, che è Adelino Cattani, dell'Università di Padova, che dice: qui abbiamo un problema di metafore. Per tanto tempo abbiamo inteso le discussioni con la metafora della battaglia e questo ci ha messo un po' in questa situazione. Perché una battaglia, bene o male, c'è un vincitore o un vinto e ci sono dei danni. Non a caso odiare anche voler arrecare danno all'altro, no? Non solo mi accontento di tenerlo fuori dalla mia vita, ma voglio anche fargli un danno con la mia comunicazione con i miei altri. Allora la metafora della battaglia ci ha costretto sempre a pensare che tra una discussione si esce vincitore o vinto. E questo ha favorito dinamiche di consenso e di odio. Mentre Cattani dice dovremmo usare una metafora correttiva, soprattutto nella situazione di pluralismo in cui siamo, in cui la differenza sarà la merce che incontriamo più spesso dell'altro, per fortuna, perché una società libera permette le differenze. E allora, in un mondo fatto di relazioni di differenza, la metafora dovrebbe essere quella del collaudo. Cioè, vedere la discussione non più come c'è un vincitore o un vinto, ma due che mettono alla prova le loro idee, il loro sapere, la loro identità, la loro concezione. Chiaramente è una fatica a mettersi alla prova, perché la maggior parte delle volte non finisce come vorremmo. Il nostro sogno è che una discussione potesse finire sempre così, con l'altro che ci dice: grazie, hai proprio ragione, ho completamente cambiato idea rispetto alla mia prospettiva iniziale, perché i tuoi ragionamenti mi hanno illuminato. Una cosa che non accadrà mai, questo è un sogno quasi infantile. La maggior parte delle volte invece quello che accadrà è che quando riusciamo a stare abbastanza in una discussione, noi ne dovremmo uscire dicendo: mi mancano ancora delle cose per essere fino in fondo convincente, ho scoperto che su questo punto non riesco a mantenere l'argomentazione, mi viene da essere aggressivo. Perché questo è interessante, noi dovremmo scoprire che quando diventiamo aggressivi in una discussione, perché è da qui che secondo me si combatte l'odio, è un punto molto lontano dall'espressione dell'odio, quando diventiamo aggressivi in una discussione c'è qualcosa che manca in noi. Qui c'è una scuola interessantissima, molto recente, di dibattiti, di discussioni, che punta sull'idea delle virtù dell'argomentatore. Cioè, siccome dice oggi non possiamo più lavorare solo sul consenso previo in una discussione, no? Cioè, metterci d'accordo prima sulle regole del gioco, vado a fare un cellulare. Sicuramente non possiamo più riferirci esclusivamente a principi che tutti riconosciamo, perché in un mondo plurale vai a conoscere i principi, è già una discussione quella. Ma dice, su cosa dobbiamo cominciare a contare? Sull'argomentatore, cioè siccome io mi comporto in una discussione. E in questa prospettiva è interessante perché questi filosofi stanno dicendo, stanno cominciando a vedere le mosse scomposte in una discussione alla luce del concetto aristotelico di incontinenza, che è un concetto interessante di incontinenza. L'incontinenza è quando, ad esempio, una persona a cui fa male il cioccolato e sa che il cioccolato gli arrecherà danno, la ragione gli dice non dovrei mangiare il cioccolato e invece lo mangia. Allora, ci stanno dicendo in una discussione, quando noi diventiamo aggressivi, è perché la ragione ci dice anche guarda qui ti dovresti fermare e dire ci devo pensare, guarda qui ti dovresti fermare e fare un'altra cosa rispetto a continuare a voler avere ragione. Noi in fondo lo sappiamo, ma in maniera incontinente facciamo la nostra scomposta per quello che abbiamo detto. Secondo me questa è una prospettiva interessante perché ci apre al tema educativo. Cioè noi ci dobbiamo chiedere, nello scenario che stiamo delineando, abbiamo un tema di educazione importantissimo che ci deve portare a dire il cittadino oggi inserito in questo scenario di connessione deve in qualche modo saper stare in questo continuo contatto con la differenza. Perché, diciamo, se vogliamo trovare un'alternativa all'odio consenso, dobbiamo lavorare su una specie di educazione al dissenso, che è una bella parola, perché l'educazione al dissenso è un'educazione alla messa alla prova di se stessi continua, che è qualcosa che noi istintivamente giudichiamo. Insomma, questa disputa felice che forse è un po' ideale, però un po' di ideale ci dobbiamo mettere dentro, perché altrimenti finiamo con lo schema che abbiamo oggi degli approfittatori, cioè di quelli che si approfittano della situazione, che è esattamente quella che vediamo. Cioè quanto converrebbe stasera anche a noi fare delle invettive contro qualcosa a cui viene un certo consenso. È una cosa che ci dovrebbe lavorare. Allora, l'antidoto secondo me in parte, almeno dalla parte che mi compete, che è il mio tipo di riflessione, è un antidoto educativo che ci insegni, che ci porti, che ci aiuti a cercare sempre di coltivare il dissenso e lo stare nella differenza. Difficile farlo, però possiamo provarci. Però questo fatto che forse Non è il caso che venga l'ultima, perché Antonio fa un'analisi di dati, Bruno un'analisi di rapporti, di persone, e io vado da persone. E quindi questo è il primo contatto, come se ci fosse un filo tra noi. Aggiungo anche Chiara, che fa la lettura, così gentilmente legge questa cosa tratta dal mio libro, dicendo per l'interno, non ho una bella voce. Ecco, io penso che la radio sia esattamente il contrario. Intanto ti vorrei, non sono gli ascoltatori di Fahrenheit, io parlo di ascoltatori. Ovviamente Radio 3 è un bacino particolare, perché è una radio particolare, una radio di pensiero, una radio di testa, una radio di competenza, per tornare a quello che dicevi. Per me avere una bella voce o avere una brutta voce non è importante. Io sono sicura che lo è per ognuno di voi quando ascolta qualcuno. Non è solo cosa dice, ma è la fisicità della voce a interessarci. E quindi anche se non vediamo, anche se la radio non offre la visione nel mondo in cui siamo tutti ipervedenti, nella radio possiamo soffrire di zone franche e là ci mettiamo del nostro. Ed ecco che diventiamo attivi, attori, partecipi di quello che succede e la competenza che ascolti diventa la nostra, ci parla. Che cosa ho fatto? Dopo tanti anni di radio ho deciso che potevo permettermi un ospizio, cioè andare dall'altra parte. Ho fatto quello che mi piace, mi piacerebbe, adesso c'è un pistoletto, spero che non serva. Mi piacerebbe definirlo un gesto artistico, nel senso che ho deciso in un modo un po' così fortuito, perché poi succede così nella vita, come l'innamoramento, capita, ti eri svegliato la mattina e ti ritrovi la sera e stai da un'altra parte. E, io stavo facendo la regia, era agosto, faccio varie cose, perché questo è bello anche il mio lavoro, fare tante cose. E quel giorno facevo la regia, ad agosto vi assicuro, stare a Roma, fare la regia di Fahrenheit non è esattamente il sogno degli italiani, ero lì. E stavamo smistando le varie telefonate, c'era il giochino, non so se qui ci sono ascoltatori di Radio 3, se parlo di cose che non conoscete, io vi spiego cos'è Radio 3, ma non credo. Comunque, ecco questa trasmissione che faccio, c'è un gioco con gli ascoltatori, ma poteva essere RTL quel gioco, ma è la stessa cosa, anche se a un certo punto chiama un ascoltatore e dice, però obbligatevi a richiamarmi, perché dove sono, cara mia, sono in orteggio. E io sentivo in preascolto uno scampanio di verso. Dico, caspita, questo sta in orteggio, con le palle, e dice auto da fè di me. Come? Beh, insomma. Allora dico al conduttore, chiedi dove sta, ti prego, chiedi dove sta, questo è un figo, c'è stato. Io voglio sapere tutto di lui. Incombeva il GR. GR vuol dire non si può sforare, ci sono le notizie dove tutti poi i giornalisti e dove tutti scriveremo su Facebook. C'è il GR, quindi faccio passo indietro. Il conduttore non chiede nulla, ma io mi tengo a morire. E dopo due detto questo, uno dice, beh, è finita qui la storia, è una simpatica, è quello che vuole raccontare. No, perché c'è una cosa proprio all'importante quando c'è il regalino nei giornalisti, oppure come si chiama, la traccia nascosta, quelle cose così. Chiamo di me come se niente fosse, va benissimo, dopo 2 anni, ma sì, Susanna, l'hai provata. Sia minato, ecco, diciamo, io ho voluto fare una dichiarazione facciamo in una sintonia che non è quella leporica ma è umana, anche se non c'è nulla, c'è l'ego, quindi sono con voi. I media, se usati, sono solo arricchenti, possono essere mostruosi o... È chiaro, bisogna imparare a usare, bisogna anche capire, bisogna analizzare come fate bene. Io ho fatto una cosa empirica e quasi infantile. Ho deciso di andare a casa di Michele, ho deciso di andare da Ivo. Nell'epoca della distrazione, io sono attratta da chi ascolta, non da chi ascolta se stesso, medita e tutto quello che viene detto nelle palestre, io ascolto me stesso, non mi ascolto bene, no, non mi interessa. Mi interessa una persona che parlando con un'altra si mette in dialogo e l'altro non guarda il telefonino, oppure semplicemente sta lì e sente. Ecco, questo già mi sembra miracoloso. Il fatto che si possa costruire in questo momento di alta possibilità distraente dei nostri rapporti umani, una possibilità invece di legame, lo trovo affascinante, quindi lo trovo corroborante. Rischio la sua debolezza, ma non importa tanto, poi riparto domani, voi penserete di me quello che volete, ma a me piacciono i lovers, non mi piacciono gli haters, mi piacciono quelli che si riescono ad ascoltare uno che sta lì davanti e semplicemente, anche se questa persona sta dicendo delle cose che magari in quel momento non sembrano interessanti, ma si mette in una prossimità già di accoglienza e quindi le mani stanno semplicemente anche così abbandonate, non si cerca disperatamente qualcosa nella tasca, non si guarda per aria, ma si ascolta. Ecco, questo io penso che sia il primo dispiacere di questa epoca. L'odio è venuto dopo, perché non siamo più abituati a dare retta uno all'altro, ma in un modo veramente, questo lo dico non da santona da quattro soldi, ma perché sto, se una cosa mi ha regalato questo libro e questi incontri che ho fatto è questa disciplina, che prima di tutto applico me stessa, cioè notare nelle persone la mitezza, la gentilezza e godere della capacità di essere ascoltata e mettermi in ascolto degli altri. Cose proprio più banali, esagerato, eppure io ho bisogno di questo, quindi ho fatto un viaggio in Italia a sbattermi abbastanza, ma sempre felicemente, sempre in modo sorpreso. Ho trovato persone che stavano lì vestite da medallari a picchiare la madre mentre stanno in chat, ma persone non buonissime, con delle storie di banali, la banalità del bene, storie banali eppure straordinarie. Straordinarie perché se uno prende e decide di, in un alpeggio di pascolare, che comunque produce il formaggio, quindi uno il formaggio ha una pecora che serve, in effetti non ce l'ho pensato, che poteva esserci a Mondovì un pastore quando ha telefonato. E la prima cosa che gliel'ho chiesta io, senza veramente, lo dico quasi denunciando la mia infantile ingenuità, dico come? Ma ci sono pastori a Mondovì? Certo ci sono pastori, il formaggio non si fa, quindi c'è, quindi pensa, io sto arrivando, sì, benissimo, ci vediamo, perfetto, io un giorno dopo ero lì e sono stata con lui, mi ha raccontato la sua storia, ho conosciuto Ivo, che gentilmente ci citava Chiara, che è anche lui ci sono arrivata attraverso la radio e in questo modo ha un puro ascolto, nel senso che io facevo colazione, io sono sintonizzata su Radio 3, lo ammetto, però sono anche contenta, stavo nella navetta di quelle radio che ti riempiono di canzoni. della radio è veramente meraviglioso questo, un lavaggio del cervello ma anche un ancoraggio, è veramente molto, molto efficace anche come fa molto più certe cose, certi resti. Però torniamo ai due, facevo colazione e sento prima pagina. Prima pagina succedeva che una signora, anzi, prima pagina sapete come funziona, le notizie, poi qualcuno telefona e di una notizia di prima pagina un ascoltatore viene poi fatta pagina, tutta la scena parla. E io sento questo Ivo, allenatore di rugby, che commentando una notizia di quelle di cronaca proprio orrende che possono succedere, che succedono spesso, negli spalti di un piccolo stadio, i genitori, dove c'era si allenavano i ragazzini, i figli, i genitori si sono menati. Bello, l'Italia, è meraviglioso. Si sono menati e quindi si sono presi a roncolate, tipo è arrivata la polizia, è arrivata l'ambulanza. E veniva il giornalista che si stava con questa notizia, che si è perfetti, l'Italia, siamo così via. Telefona Ivo e Ivo dice, io sono un regista, un vecchio regista. Ho 75 anni, sono romano e ai miei allievi insegno la regola delle 3A, rispetto per allenatore, arbitro e avversario. E io due giorni dopo stavo da Ivo, sono andata a trovarlo al campo dove aveva i suoi ragazzi, il suo è un ascolto fisico, l'ascolto degli sportivi è un ascolto di fatto di abbracci, di pelle, di muscolare, è un ascolto istintivo, è quasi un ascolto primordiale e io mi ha raccontato questo. Quindi io sono entrata, diciamo, dall'altra parte della radio alla ricerca di persone. Non so. Muovermi esclusivamente, è vero, nella radio che faccio, però poi sono storie di ascolto, perché essere un regista, lavorare con i vecchi, per esempio, in un ospizio, vuol dire ascoltare tante cose, ascoltare anche attraverso gli occhi di chi non riesce più magari a esprimere. Ho incontrato tante persone che ho potuto conoscere esclusivamente perché avevo bisogno di un gancio per conoscere, il mio gancio era la radio che faccio, però sono ascolti, diciamo, variegati. Grazie. È difficile riuscire a creare una narrazione per me, che tenga dentro l'analisi, l'approfondimento, la guida, il casseggio, gli ascoltatori. Parole che ho partorito ascoltandovi e non ve le voglio affibbiare, però ci voglio ragionare. La prima è il buio. Susanna va, conosce una persona, va a incontrare un ascoltatore che si fa in qualsiasi altro tipo di ascolto, è come se gli mettesse una luce addosso, come se lo illuminasse. Perché si crea una relazione. Il buio però è esattamente la condizione in cui siamo nella maggior parte delle volte in cui ci facciamo raccontare internet dalla TV, in cui leggiamo, ad esempio, quello che ho letto stamattina, e forse anche la TV, anche di voi hanno letto, Liliana Segre, siete senatrice, sì, sopravvissuta all'Olocausto, ha ricevuto ricevere oltre 200 insulti online al giorno, secondo l'Osservatorio dell'Antisemitismo. Perché ve lo dico? Perché è uscito su un giornale, l'ho letto, non sono riuscita a digerirlo, non sono riuscita ad avere una proposta, sono riuscita soltanto ad indignarmi. È lo spazio di indignazione, poi si crea questo momento di blackout, può creare un momento di blackout. E poi c'è un'altra parola che invece vorrei collegare a lui. La logica e la realtà. Logica e la realtà. Bruno è un filosofo, quindi credo che stia capendo cosa intendo. Wittgenstein, non per caso, che ovviamente svogliamo tutti i giorni, però filosofo, di cui ho letto qualcosa. Tra le cose, l'unica opera che lui ha pubblicato in vita tratta proprio della logica e della realtà. La logica è l'immagine della realtà. E quindi dovrebbe raccontare il fatto che è fondamentale. Ma come ci riesce? Ci si riesce di non essere promessa? E poi l'altra domanda, l'altra parola che susciterà per domani, spero, e una risposta soprattutto, faccio Susanna, come si riesce a mettere, come ci si riesce a mettere in relazione? Perché si sceglie di ascoltare? Quali sono le condizioni per cui riusciamo a metterci in una posizione comoda per non sentire le differenze, per apprezzarle probabilmente, per sentirci anche un po' le mani dell'altro. Te lo chiedo anche perché tu hai parlato di lovers, hai parlato comunque dell'opposto dei mediatori, quindi hai parlato di persone che agiscono su un livello probabilmente di ricerca della felicità attraverso la relazione. Perfetto. Adesso non lo spiegherà. Non penso che sia una ricerca della felicità. Non penso che sia una ricerca della felicità. No. Penso che ci sia sottolineare nella quotidianità aspetti come quello di del rispetto per gli altri, ma la curiosità per la storia degli altri. Io sono certa che se noi avessimo alle 8:30, invece che il punto televisivamente parlando delle ultime boiate naziste o nazistorie che vengono comunque insufflate nelle nostre case, e di cui si dissenta per mezz'ore, se queste cose non avessero tanto spazio, io non credo che ci sarebbero persone che perderebbero tempo, vita, luce a mandare messaggi alla mia sede. Perché quello vuol dire avere un po' di luce, ma una luce che è quella che mi parlava di parlare male prima, cioè una luce banale. Dentro il camion, dove andavano, chi era, invece diventa un ammasso come il congelatore con ciabietti da fuori stacca le cose da tutti. Dobbiamo ridurci a questo. Perché questa cosa non si fa fatica su questo? Perché i media non operano questo tipo di scelta? Perché? Secondo me qui la parola di non dare sempre fiato alla bocca e di anche avere senso delle cose che dici, usare le parole. Io se vi dico, non vi dico di comprare un libro, vi dico di comprare il libro di George Jones che si chiama Volpe Rotto, che è un libro sulla una piccola favola scritta da un grande scrittore americano che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Lincoln del Bardo, in cui raccontava questo libro Lincoln, il presidente Lincoln, nel purgatorio, perché voleva parlare con questo suo figlio molto piccolissimo. Quindi una storia di tenerezza infinita di un padre nei confronti di un figlio che comunque è morto, ma che lui immagina la vita. Lo stesso scrittore George Thomas ha fatto tante cose, ragiona sulla gentilezza. sull'indignazione, era questa la parola, anche il buio. Ma il buio nasce quando non vediamo l'interlocutore perché non ci interessa, perché non lo ascoltiamo. E mi ha fatto molto riflettere quando hai citato il caso della creazione della hotline nel 63 tra Kennedy e Khrushchev, durante la crisi dei missili, anzi dopo la crisi, proprio perché quello che poteva succedere, cioè la terza guerra mondiale, stava succedendo per una inadeguatezza dei mezzi di comunicazione tra le due superpotenze fino a quel momento, tant'è che il povero Kennedy, anzi il grande Kennedy, decise di ignorare la prima lettera che gli arrivò da Khrushchev, che era ancora una lettera non risolutiva della crisi. E poi contemporaneamente, evidentemente a Premierino stava succedendo qualcosa, era partita un'ulteriore lettera che proponeva un patto, diciamo, segreto, ormai sappiamo come andò a finire, noi torneremo indietro con le navi, smetteremo di installare i missili su Cuba se voi rinuncerete a mettere i missili in Turchia. Cosa che poi segretamente gli Stati Uniti fecero. E, però insomma andavamo molto vicini all'olocausto nucleare e come prima conseguenza fu deciso di instaurare una linea bidirezionale senza intoppi diretta tra Washington e Mosca per risolvere direttamente a Mosca senza equivoci queste crisi. Cosa succedeva prima? Perché siamo arrivati fino lì? Come si ascoltavano Stati Uniti, l'Unione Sovietica fino ad allora? Noi ascoltavamo Radio Mosca, vedevamo Vremia, che era il telegiornale di Ostanchino TV, cioè della televisione pubblica russa, e loro guardavano la CBS, la ABC, cioè o meglio, vedevano l'ambasciatore, e poi dice, guarda la TV, dice, cioè, e poi c'erano i canali diplomatici, che però era un'altra cosa molto mediata e che andava a dare con grande attenzione. Insomma, prima c'era il broadcast. La soluzione della crisi è stata trovata trovando una linea a due vie. Ecco, oggi noi siamo alla fine dell'era del dominio del broadcast e stiamo provando a vedere che succede se sfruttiamo veramente una linea a due vie e avremo l'opportunità di cominciare a dialogare. Ebbene, non solo a livello individuale, non la stiamo ascoltando, come dice Bruno, non solo a livello aziendale, stiamo impostando i modelli come se fossero un broadcast. Lo Sender Akshani, che è un grande blogger iraniano, l'anno scorso a Pisa disse, senza mezzi termini, che Facebook è la nuova televisione, punto. Non nasce per un ascolto. Una cosa fantastica di Radio 3 è che Radio 3 ha sempre ascoltato, ha educato gli ascoltatori ad ascoltarti. Il meccanismo di prima pagina è tutta la città di Parma, bellissima tradizione con Pietro del Soldato, cosa Polacca voglio ricordare. Nasce proprio da questa connessione continua. La radio è stata sempre molto social, sia nelle forme più responsabili, chiamate Roma 3131, i fili diretti, sia nelle forme di sperimentazione più folle, le radio libere degli anni 70, sia quando abbiamo scoperto cosa c'era dietro questo velo di non ascolto, quando Radio Realità aprì la segreteria telefonica e ci rendiamo conto che l'odio era già lì pronto per venirci molto prima che Mark Zuckerberg mettesse a disposizione la sua infrastruttura, perché per tre mesi gli italiani si sono insultati con le parole più ripetibili. Potete ancora ascoltare se andate sull'archivio di Radio Radicale, per chi vi dice che l'odio l'hanno portato i social. Chiusa questa simpatica parentesi, il buio, dobbiamo rompere il buio e gettare una luce però su ognuno di noi. E non dire alle persone, insegui quell'unico punto dove il riflettore ti illumina, lotta per andare sotto quel riflettore, così tutti ti guarderanno e ti comporterai come in televisione. Liliana Segre riceve quanti insulti al giorno? 200. Le persone, chiaramente, i valori di queste persone sarebbero oggetto di studio, però insomma quelle persone cercano soprattutto visibilità, perché insultare Liliana Segre è un palco naturale che si crea, un luogo dove sono sotto un riflettore. E lo posso, questo meccanismo può succedere perché c'è una persona straordinariamente impegnata a ricordarci tutti i giorni entrambe l'Olocausto, quindi ansegue con coraggio, continua tutti i giorni a girare l'Italia a parlarci con le ultime, una delle ultime testimoni di quello che è successo, direi. Però può succedere anche per caso. Io vorrei raccontarvi l'episodio della ragazza, che non ricordo più il nome, che sopravvisse alla slavina dell'hotel del Gobinano. Sì, ricordiamo che felice per essere sopravvissuta, pubblicò su Facebook un post in cui disse: sono felice, questa ragazza aveva la sfortuna di essere carina, brillante, intelligente, dolce, e in più era sopravvissuta, e poi donna, che sottolineiamo. E non si era resa conto che, essendo sopravvissuta, leggendo i giornali di quella stessa mattina e dei giornali di quello stesso giorno, raccontando la sua storia edificante di persona, di piccola bella notizia dentro una notizia drammatica, aveva creato inconsapevolmente un palco. E sconosciuta a tutti su Facebook prima, fino al giorno prima, quel thread, quel post è diventata una latrina di soprattutto uomini, giovani, non anziani, questa è la cosa che vorrei dire, giovani uomini che quasi la colpevolizzavano per essere sopravvissuta. Perché più la sparavi grossa lì dentro, più vedevi che i tuoi commenti avevano 100-200 like. E Zuckerberg offre questa funzionalità di dare celebrità a questo tipo di audience, che è una derivata diretta dell'audio broadcast di cui ci siamo nutriti negli ultimi 30 anni. Quindi io non faccio distinzione tra vecchi media, tra buoni o cattivi, o nuovi media, buoni o cattivi. Il problema è, insomma, le scelte che dovrebbero essere responsabili, come dice giustamente Susanna, e non lo sono perché vengono forse ritenute, almeno fuori dalla radio pubblica, non sostenibili economicamente o perdenti, perché gli inserzionisti poi portano il conto. Ci sono persone che devono vendere bastoncini di pesce o riso senza lattosio, che è una cosa che abbiamo tutti in testa. L'unica cosa forse che ci è rimasta delle maratone elettorali, delle maratone delle crisi di governo di quest'estate, no? E se noi pensiamo che poi tutto questo è servito a farci andare al supermercato e pensare automaticamente a questa cosa del riso senza lattosio, come ultimo fine e scopo di una cosa che dovrebbe essere il racconto di una fase decisiva del paese, se a decidere cosa viene detto e cosa non viene detto in una trasmissione così importante, e chi vende e compra spazi pubblicitari, e non lo dico io, lo dice Emily Bell, che non spostiamo perché dirige il centro di studi sui media negli Stati Uniti, se non ricordo di quale università, scusatemi, lo dice, non si può avere informazione veramente libera se si fonda solo sulla raccolta pubblicitaria. Vabbè, non ho più, cioè non voglio rubare troppo tempo e prendermi anche la parola indignazione, ma secondo me quello che ha detto Bruno prima sull'indignazione, e cioè che quando noi mettiamo like sembra che esprimiamo consenso, in realtà stiamo esprimendo dissenso perché stiamo mettendo like a qualcuno che insulta magari un'intera categoria di persone, e quello innesca quello che oggi a pranzo abbiamo chiamato scherzosamente il frattale dell'indignazione, che è un meccanismo infinito ciclico di cui naturalmente i modelli economici si nutrono. Mi chiede la parola sull'altro. Sono molto male. E poi il mondo è fatto bravo. perché se uno si mette una cosa, esce, tipo giù botto una cosa, e c'è sempre un amico che gli fa, ma che ti sei messo? Questa cosa è bellissima perché è proprio umana, però allo stesso tempo fa sì che c'è questo disincanto che ridimensiona e che io faccio mio in questo momento. Ho capito? Però magari non è certo più grave perché hai dato un dato importante che mi risuona nella testa. Sono più lesive di quei 200 trogloditi, tutte le tavole rotonde su 200 trogloditi. Si possono applicare. Allora, quel numero 200 che ho usato era semplicemente ciò che da solo giustifica ed esalta il singolo commentatore e odiatore. Il thread era molto più grande, però dobbiamo cominciare anche a ragionare su numeri diversi rispetto a quelli del broadcast a cui siamo abituati. I documentari del National Geographic di Sky, che occupano un canale digitale satellitare, vengono visti in media da 5.000-6.000 persone. Quindi ormai i social, quando bucano la linea della celebrità, hanno numeri che cominciano a diventare irrilevanti, no? Questo lo voglio dire. Poi sul fatto che invece che fare le tavole rotonde, magari sui giornali non si debba dare spazio, quindi premiare come eroi questi odiatori, su quello sono d'accordo. Ma allora io intanto ho ricevuto una domanda bellissima in cui avrei bisogno di 8 ore per rispondere su logica e realtà, e me la cavo come si fa in questi casi con due immagini. Per dire una cosa, che la logica è una cosa talmente utile che bisogna immediatamente dimenticarla quando si discute con qualcun altro. E le scene sono queste: marito logico, moglie vivente nella realtà. Moglie dice al marito: ho freddo. E il marito risponde: ma come? Ci sono 22 gradi. Logico, vivente. La moglie vivente non sta dicendo, non sta chiedendo quanti gradi ci sono in questa stanza. Sta chiedendo: mi prendi un maglioncino, ti occupi di me, ti rendi conto che io sono a disagio? E il marito risponde con il dato. Occhio, perché a volte noi facciamo così, con gli xenofobi, gli diciamo: ma gli sbarchi non sono così tanti. Non stiamo capendo che lo xenofobo, la sua xenofobia, sta esprimendo una paura di qualcosa che ci dovremmo prendere cura diversamente, non con la logica e basta. Dalla logica bisogna partire, non pensate che io voglia fare un pensiero logico. Ma vi faccio un altro esempio, che è quello più pericoloso quando parliamo di dialogo, perché noi abbiamo la cultura del dialogo, la cultura della pluralità di opinioni, la possibilità che ogni cosa si possa vedere da due punti di vista diversi. E allora l'esempio tipico è la saggezza, il detto: ogni discesa è anche una salita. Come bello, no? Questo nella logica funziona, ogni discesa è anche una salita, dipende dal punto di vista. Ora però mettiamoci la realtà vera, no? E mettiamo uno in cima alla salita, che dice: questa salita è anche una discesa. Adesso vai a dire che è una discesa quella lì, a quello che sta in fondo la deve salire, e siamo al 15 agosto a Lecce. Vai a dire: ma questa è anche una discesa, se lui deve salirla è soltanto una salita molto difficile. Allora sono battutine per dire che uno dei rischi che abbiamo quando diciamo parliamo del dialogo e anche quando parliamo dell'ascolto è che a volte parla di ascolto e di dialogo chi è nella posizione forte e dice: beh, adesso tu che sei spaventato, non hai le competenze, non hai i mezzi, non sai capire la realtà, dovresti dialogare con me. E questa è un'operazione molto pericolosa, diciamo, perché sta chiedendo all'altro quello che non può fare, mentre l'ascolto è molto più simile a quello che ci ha detto Susanna prima, è andare nel mondo delle persone. E il mondo dell'altro è un altro mondo, e l'altro mondo è un casino, perché prima di tutto ci ricorda che il nostro mondo non è più l'unico, e guardate che quando ti ritrovi in un mondo che non è tuo, i riferimenti sono diversi. E poi quel mondo lì può essere terrificante, può essere orrendo. Quindi, diciamo, l'andare dalle persone, che ci ha detto Susanna, che credo che sia proprio la chiave di tutto, significa un andare dentro mondi, non significa semplicemente stare lì ad ascoltare. Cioè, ascoltare è un'azione attiva e faticosissima, perché è un entrare, un cercare di lasciarsi entrare, oppure non ti fanno entrare, fa che il litigio è anche chiudere il proprio mondo, io non voglio che tu entri nel mio mondo. Ma in questo io voglio dire anche qualcosa sulla seconda questione, quindi mi ricollego problematizzandola, perché c'è il caso di cui ha parlato Antonio, ma c'è il caso corrispettivo in cui i media tradizionali o classici hanno avuto un ruolo attivo, che è stato il caso di Nadia Toffa, non nel momento della sua morte, ma nel momento in cui lei annunciò della sua malattia, vi ricordate? La notizia fu data, su Twitter esplode l'odio contro Nadia Toffa e venivano riportati sempre quei 5, 6, 10 screenshot oggettivamente orrendi e illeggibili di persone che auguravano, che gioivano del fatto che lei era malata, eccetera. Allora quel giorno, e io poi magari se in sala c'è invece un analista più serio di me, mi sono detto, ma davvero è possibile che ci sia tutto questo odio su Twitter per Nadia Toffa? Sono andato a scorrere l'hashtag Nadia Toffa per ore e ore alla ricerca di questa ondata d'odio. Poi mi sono rivolto a qualche analista serio che mi ha detto che i tweet sono stati quel giorno 27.000. Ora, su quei 27.000 siamo riusciti a trovare alcune decine davvero orrendi e illegibili. La maggior parte delle volte erano persone che ritwittavano indignate, così mi ricollego anche all'indignazione, i tweet di quelli che avevano scritto cose orrende, ovviamente regalandogli la cosa migliore, quel palco di cui sta parlando Antonio. Ma soprattutto alla fine erano stati i media classici anche che avevano raccontato tutta questa storia dal lato, e qui sì, irreale. Perché la notizia reale era, e vi garantisco che io non posso numeri, non ho letto tutti e 27.000, ma almeno 5.000 sì quel giorno. La notizia era che alcuni tweet erano di questo tenore: io detesto Nadia Toffa, non mi piace il suo modo di fare giornalismo, non mi piacciono le Iene perché lei è sempre fatto, ma di fronte a una ragazza che adesso sta lottando con la malattia, abbandono le armi e le esprimo tutta la mia solidarietà. Cose di questo tipo ce l'ho scritte da far venire i brividi. Cioè questa era una vera notizia, l'ondata di solidarietà verso Nadia Toffa, non solo da parte dei suoi supporter classici, ma anche da gente che di fronte alla malattia aveva abbassato le armi, diciamo così. Questa forse era un bel racconto, magari parallelo anche a quello dell'odio, perché noi dobbiamo non raccontarci l'odio o censurarlo, non sto dicendo questo, ma farlo rientrare nelle sue giuste dimensioni, osservandolo, ma mettendolo soprattutto non nella logica, la logica è rischiosa, stare in cima alla salita e dire dai che è anche una discesa a quello che sta sotto, ma nella realtà di quello che sta sotto e cercare di capire perché per lui è una salita. Questo forse è il vero senso di superare l'odio, pensare a quello che alla salita sta in fondo, non si può dire una discesa. Fatto molto i miei quesiti. C'è una cosa quindi che dovremmo evitare di fare: mettere la testa come uno struzzo nella sabbia. L'illusione dell'altro, l'illusione di non voler vedere, di non voler far luce. C'è una cosa che ho letto che mi ha molto colpito, scrittore molto bravo, sicuramente lo conoscete. Jonathan Safran Foer, nel suo ultimo libro, ha scritto che in realtà lo struzzo non mette la testa nella sabbia perché vuole eludere, perché in realtà sta curando la prole, gira le uova. Ora, io non credo che nel nostro tentativo di illusione, nel nostro senso molto ampio, ci sia necessariamente un'azione di responsabilità, c'è anche un po' di inconsapevolezza, sicuramente nell'illusione c'è l'inconsapevolezza, però vorrei ricollegarmi poi a quello che ha cercato di sostenere prima, cioè cerchiamo di cogliere la parte di inconsapevolezza del nostro essere umani, anche la nostra consapevolezza possiamo tenerla dentro, ma cerchiamo di cogliere l'aspetto più propositivo. Poca azione. Senti, io in questo ti chiedo di poter leggere un brano del tuo libro che in qualche modo, secondo me, crea un accordo tra queste cose, tra questi aspetti che abbiamo toccato e questi ultimi cose di cui ho parlato. Direi che manca solo un GS, ma non è la sua, però diciamo che conosciuto tantissimi scrittori, tante cose belle, io qui racconto a Cenerentola queste cose, ma c'è la dottrina della poesia e questo è un successo. Scusate, siete della radio che sta trasmettendo? Sì signora, mi dica pure, lavoro qui. Quando è che devo andare in onda? La poetessa Carmela Cervillo di Napoli, piacere. Mi avete chiamato con l'intervista. So che devo leggere anche alcuni miei testi che ho portato con me. Osservo la signora che ho davanti. Sembra una copia più lucida di Anna Merini. La nuvola color pastello che la avvolge, i fiori sul vestito e il cappellino di paglia, vezzosamente poggiato sui capelli cotonati di stoffa, la rendono a suo modo poetica. Tra le mani stringe un quaderno e sul viso sfoggia un'aria sicura, ma fissa, assai meno drammatica di quella della sua collega milanese. In comune comunque ama il rossetto, ben carico e sbaffato ai lati della bocca. Piacere, Susanna. Allora, mi microfonate? Con lo sguardo cerco Michele, ma del mio collega nessuna traccia, quindi guardo. Siamo solo la poetessa e io. Mi alzo sul ponte dei piedi, no, non c'è troppo, ma già sarà sparito a caccia di ospiti nello spazio successivo. Provo sul cellulare. Non prende o è staccato. L'avrà chiamata lui questa Carmela Cervillo, possibile. Allora, in casa la poetessa. Signora, mi faccia verificare. Dietro gli occhiali di strass, i suoi occhi perforano il foglio che ho per mano, come il raggio di sole che attraversava la lente di ingrandimento degli esperimenti animali. Se non mi sbrigo, la scaletta prenderà fuoco. Francamente, signora, il nome Carmela Cervillo non c'è. Vede, ma chi l'ha avvisata? Chi della redazione l'ha chiamata dicendole di raggiungerci qui per la diretta? E che dirle, signori, voci di corridoio? Però mi sono divertita a ricordare questa poetessa e metterla anche nell'Olimpo insieme a lei, fuori con la stessa frase. Grazie Susanna. Poi che c'è il capo perché Antonio è già più pronto per poter rispondere. Allora, io sono un grande ascoltatore di Fahrenheit, naturalmente un grande amante della radio e addirittura ascoltavo la radio alle corte per cercare di sentire una voce un po' diversa quando non c'era questa grande offerta così come c'è oggi. Quello che insomma Susanna nel suo libro insomma vi assicuro riesce a trasferire l'amore per la radio innanzitutto e l'amore per le persone, quindi direi quale è il migliore antidoto naturalmente per tutti i discorsi che stiamo facendo. Quello che mi preme dire, magari visto che è un po' la conclusione del nostro intervento, è attenzione perché là fuori da questi recinti dove li stanno impedendo, i vecchi recinti della distribuzione che non ascoltano, non ascolta. E naturalmente fuori dai recinti in cui li stanno scatolando sui social network c'è veramente tutto un mondo intorno. La premessa di riuscire a fare questo passaggio e quindi sfuggire anche al circuito dell'odio e la misura è quando vi mettete davanti a uno di questi schermi piccoli, grandi, eccetera, non rimanere con la testa a pensare a cosa passa all'ennesimo momento, perché anche il modello più innovativo, l'algoritmo, il vostro palinsesto, alla fine siamo sempre lì, è un altro momento. la timeline di Facebook, che non riflette neanche più ormai la sequenza temporale, ma quello che conviene a Facebook e non a voi. Addirittura la homepage di Amazon mi dà la sensazione di proporvi per esempio i libri, i prodotti che volete comprare, e non è così. Vi dà questa illusione, ma non è così. Se voi accendeste un neurone, invece che guardare le raccomandazioni di Amazon, vi rendereste conto che potreste desiderare tantissime altre cose che convengono per voi e non ad Amazon. Facebook ce ne fa di Amazon. Per sfuggire a tutto questo, sfuggiamo da una parola devastante, sia dei vecchi sia dei nuovi membri. E questa parola devastante è discovery. Abbandoniamo l'idea di farci dare una pappa pronta. Fermiamoci davanti allo schermo e magari invertiamo il rapporto. Quello che abbiamo fatto oggi nella nostra giornata vissuta, come possiamo approfondirlo su internet? Siamo stati a un museo, abbiamo visto un quadro, abbiamo parlato con una persona che ci ha parlato di un artista, di uno scrittore. Invertiamo il rapporto. È la nostra vita reale che ci può dare il discovery. E poi non possiamo usare un'altra cosa che si chiama il search. Purtroppo anche il search è intermediato da Google, che non ci fa vedere esattamente quello che cerchiamo, ma una approssimazione che conviene a Google. Ma anche questa, anche questo è un passaggio, diciamo così, che pian piano possiamo invertire, anche perché esistono là fuori mondi di contenuti molto più liberi. Ora sembrano vuoti, sembrano un po' degli scheletri, perché col trionfo di Facebook molto spesso, se facciamo un link anche su Wikipedia, il link è rotto perché non ci sono abbastanza volontari per fare la manutenzione degli archivi digitali, per vedere cosa è ancora online e che cosa no. Però ci sono grandissimi progetti dove si trovano tanti contenuti che potete solo cercare e che nessuno vi raccomanda. Per esempio, io segnalo sempre l'archivio dell'Istituto Luce, l'archivio di Radio Radicale. Internet Archive negli Stati Uniti sta facendo un lavoro straordinario. Guarda caso, ho citato un ente pubblico e due enti che si fondano su fondazioni volontarie. Esiste l'archivio del Movimento Operaio Democratico che fa un lavoro straordinario. Ecco, mi sembrava assurdo sentire un analista di business che viene qua e mi dice: sì, vabbè, non andate su Facebook, andate sugli archivi pubblici. Ragazzi, è un inizio, un allenamento mentale per smettere di accettare che ci sia qualcuno che stabilisce cosa è rilevante per voi. L'algoritmo di Facebook, ma anche la prima pagina del web, mi dispiace, anche gli intermediatori culturali che sbarcano con la rete o contro la rete, the game, semplicemente perché chi è in pericolo è lui, l'intermediatore culturale. Ora avremo sempre bisogno di intermediatori, però speriamo di avere intermediatori diversi da una macchina, diversi da un calcolo matematico, da un algoritmo che non ragiona, è stupido, come dice giustamente Susanna. Troviamo nuove persone in grado, libere dal modello di business, di dirci che cosa può essere rilevante per noi. Cominciamo dalle persone della vita reale che vengono intorno. Chiusura. Che ho dedicato al tempo acceso insieme a Draghino proprio a questo tema di cui sta parlando Antonio, con una triplice immagine. Internet può essere terreno di caccia, cacciatori, che forse siamo stati noi un po' nerd dell'epoca in cui ci si connetteva in poco, andavamo a trovare contenuti in territori esplorati che portavano a quelli che erano disconnessi. Poi arrivava la connessione per tutti, iniziava l'epoca di due guerre, che se le danno di santa ragione sia nelle discussioni sia nella concorrenza, nei prodotti, nel segnalare un delle relazioni.